Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Io sono convinto e confido che ci sarà un'indagine corretta, strettamente scrupolosa delle norme dello Stato di diritto, di cui questa grande democrazia indiana è esempio. Noi vorremmo che venga riconosciuta prima di tutto la nostra innocenza. Dobbiamo tutelare i Marò, vedere di riportarli a casa. E io credo che questa strada ci rende possibile sperare in una soluzione fast and fair. Noi quel che possiamo fare è comportarci da militari, da italiani, e come disse un tempo, soffrire con dignità. Ho incontrato il mio omologo indiano per ribadirgli che siamo determinati a esplorare tutte le azioni e politiche e legali a livello internazionale per vedere riconosciuti i nostri diritti ad esercitare la giurisdizione sul caso dei due Marò. Abbiamo obbedito a degli ordini ed oggi siamo ancora qui presenti. Abbiamo mantenuto una parola, quella che ci era stata chiesta di mantenere, e che ancora con dignità e onore per la propria nazione la continuiamo a mantenere. Ci stiamo lavorando con grande serietà e riservatezza. Penso che siano stati fatti dei passi avanti. Purtroppo sono quelle cose in cui dovrebbe valere il motto pensarci sempre e parlarne il meno possibile. Caso Marò, la Corte Suprema di New Delhi ha deciso di non valutare la richiesta di Massimiliano Latorre di prolungare di altri 4 mesi la convalescenza in Italia dopo l'ictus accusato a settembre. Respinta inoltre la richiesta di Salvatore Girone di poter tornare a casa per Natale. Una doccia gelata è stata, perché abbiamo trovato veramente incomprensibile questa decisione. Ecco. Adesso la Pinotti si tiene Massimiliano Latorre, l'ha detto ieri sera. Ma con che obiettivo, Mario? Cioè, mi sembra che abbiamo sentito tutti i ministri degli esteri che si sono succeduti al governo, era sempre lì la soluzione. Abbiamo il capo della diplomazia europea, la Mogherini, non siamo riusciti neanche a rendere europeo il problema del due Marò. Ma solo un povero ingenuo, un illuso, poteva pensare che con gli indiani la trattativa sarebbe stata così semplice. Ho sentito l'Abbonino dire fast. Con gli indiani non è mai fast, perché i tribunali sono completamente diversi, le competenze sono cambiate un paio di volte, lo scenario politico è cambiato, ci sono state le elezioni. Sì, ma il problema è cosa abbiamo sbagliato noi, cioè abbiamo farli scendere dalla nave. Abbiamo impostato quello è l'errore iniziale. L'errore di tutto è stato quello, cioè certo. I nostri soldati marinai non dovevano scendere dalla nave. Una volta che sei sceso, sei in terra straniera, giurisdizione straniera, con tutte le complicazioni del caso. E lì non si è neanche capito. Posso esattamente chi li ha fatti. Io non sono neanche tanto convinto che la mossa di tenersi, di lasciare in casa uno dei due, quindi di tenerlo in Italia, sia così smart, intelligente, perché cosa succede all'altro? No, certo, ma l'altro sta in ambasciata. Sì, sta in ambasciata, ma sempre in India. Quindi, beh, sì, insomma, tu io non sarei così convinto di questa cosa. C'è solo una strada, che è quella a cui hai fatto riferimento tu prima. Rendere il problema europeo. Certo. C'è forse l'inutilità della Mogherini nel suo ruolo a rendere drammatico ancora di più questo caso. Come dice Mario, una volta scesi, bisogna costruire una strategia precisa. L'Italia non è in grado perché l'Italia non ha sovranità. L'Italia rispetto all'India non ha un rapporto paritario. Basti ricordare l'esempio del Cermis, quando un aereo militare americano tranciò la funivia seminando morti in territorio italiano. Non ci fu neppure la possibilità di fare i rilievi e le autorità italiane, le autorità di e neppure la polizia italiana, certo, poté mettere mano a un caso tragico come quello. In Italia, invece, che non ha nessuna sovranità, ha una sola strada, qualora l'Europa esistesse davvero, certo, quello di farlo diventare, cioè, un problema europeo. O diventa un problema europeo, perché c'è stato questo errore anche di pensare di fare i furbi, cioè di tenerla sotto traccia e di gestirla chissà come, forse in cambio di affari, di contratti, cioè proprio una strategia successiva allo sbarco completamente sbagliata, perché non è mai diventato neanche un arbitrato internazionale, non e si è chiesto neanche quello. Giovanni, gli indiani non si fidano del giudizio. Non so come dire, cioè in tutta questa discussione, lo dice uno che insomma, non è sospettabile di antimilitarismo o cose del genere, però il merito, il fatto, l'assassinio, l'omicidio, l'incidente, chiamatelo come volete, viene sempre tenuto, come dire, sotto traccia. E gli indiani questo non è che possono ignorarlo. Sono morte delle persone e chiedono giustizia, sì, processo. Comunque, complicato. Il tema è oggi sapere se l'Italia è pronta a sostenere uno scontro con l'India, perché per come l'ha messa la Pinotti adesso è un braccio di ferro. Per forza. Io mi tengo il mio, dicevi anche tu all'inizio, mi tengo il mio, quell'altro sta là, è vero, sta in ambasciata, però insomma o l'Europa fa qualcosa o siamo, o sono, siamo entrati veramente in un buco nero. Non ci abbiamo neanche il business per sostenere una posizione diplomatica così forte. Noi non abbiamo una forza commerciale grande in India. Quindi io non so, non lo so, sono molto perplesso. Secondo me la via detta da Pietrangelo è quella Europa, corretta. O Europa o niente. Sì, o Europa o niente. E resta poi un fatto tutto culturale, tipico della mentalità italiana, di prendere e di mettere sotto gamba la storia di due ragazzi del sud che sono militari, oltretutto due soldati che provengono dalle schiere della elite della nostra, certo, storia militare, considerati carne da macello non solo dalle istituzioni che hanno dimostrato di essere imbelli, ma soprattutto da un'opinione pubblica perfino ostile, foraggiata da una mentalità antimilitare. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Franco Caringella, 49 anni, barese di origine, romano di adozione, 4 figli. Prima di diventare consigliere di Stato è stato ufficiale della Marina, commissario di polizia, magistrato penale. Adesso con "Non sono un assassino" e alla seconda prova di scrittore. Tante esperienze. Qual è l'appassionata di più? Tutte ugualmente. Potrà sembrare diplomatico, ma essere giudice ed essere scrittore è la stessa cosa, perché significa raccontare vicende umane che stanno dietro vicende delittuose. Ecco, nel suo libro, un noto magistrato leccese viene trovato morto. L'accusa di omicidio ricade sul suo migliore amico, dirigente della squadra mobile di Bari, Francesco Principe. Chiuso nel carcere di Potenza, Principe deve lottare per dimostrare la sua innocenza, scoprendo che in tribunale verità e menzogna sono divise da un filo sottilissimo. È così anche nella realtà? È così nella realtà, perché il compito del giudice è accertare la verità, e la verità è ostacolata da molti nemici, che sono le menzogne, i pregiudizi, le apparenze. Il giudice deve dipanare questo filo. Ecco, ma il magistrato è il burattinaio che deve maneggiarlo, questo filo, in qualche modo? Dovrebbe essere il burattinaio, rischia di diventare il burattino, in quanto nel processo le parti sono dei cacciatori e il giudice spesso è la preda, perché le parti cercano di sedurlo. Il giudice deve fare attenzione a queste lusinghe. E qual è il trucco per riconoscere il filo? Il trucco è l'umiltà e la curiosità. L'umiltà, perché ecco, diceva Calamandrei che l'umiltà è il prezzo che il giudice deve pagare all'enorme potere che ha. E la curiosità, perché il giudice deve essere come un bambino che deve cercare e scoprire la verità che si nasconde dietro le apparenze. Senta, ma da magistrato ha scritto un romanzo giudiziario dal punto di vista dell'imputato. È un modo anche per esorcizzare l'incubo peggiore? Sicuramente sì, perché l'incubo di ognuno di noi è essere prelevato da casa e sbattuto in galera, come in tanti film e in tanti romanzi. Ma è anche una mia riflessione, perché quando ero giudice in corte d'assise e guardavo l'imputato dietro le sbarre che attendeva il responso che l'avrebbe salvato, terribile, o spedito nel baratro, io mi domandavo cosa pensa quest'uomo. Ho cercato di immedesimarmi negli uomini che, ecco, ho giudicato. Dottor Caringella, lei scrive: quanti sono i sostituti procuratori che propongono la soluzione per l'imputato di cui loro stessi hanno chiesto il rinvio a giudizio? Si risponde: nessuno o quasi. Per molti chiedere la soluzione sarebbe ammettere un errore, ma non è una bella valutazione che fa. Qui, per la verità, parla il protagonista del romanzo, non Francesco Caringella, scrittore. E Francesco Caringella la pensa come il protagonista del romanzo? Io la penso che, nel senso che i sostituti procuratori dovrebbero essere gli avvocati della verità, non gli avvocati dell'accusa, cercare le prove dei fatti, non della colpevolezza. I PM che non lo fanno, spero siano pochi, perché vogliono essere innamorati della loro tesi accusatoria, non sono dei giudici, sono dei poliziotti e quindi non fanno il loro dovere. Senta, nel suo romanzo il personaggio del pubblico ministero, Paola Maralfa, dai colleghi soprannominata il Molosso, alterna durezza e sensualità. Sono armi vincenti anche nelle aule reali o solo un fatto romanzato? Sono nella natura romanzata dell'accentuazione fatti reali, perché nel processo, nei processi che io chiamo marginali, dove la verità e la menzogna sono molto vicine e dove gli indizi sono molto dubbi, il giudice può essere sedotto dalla personalità, dalla professionalità, dell'intelligenza, ma anche dalla bellezza, per paradosso. Quando nel 92 Mario Chiesa veniva arrestato, lei diventava giudice della settima sezione penale di Milano. Oggi che effetto le fa ripensare a Mani Pulite? Mi fa l'effetto di una grande occasione persa. Si poteva cambiare il paese e non ci si è riusciti. Perché? Non per colpa di nessuno in particolare, ma perché la società non ha recepito gli effetti di quell'inchiesta, ma li ha contrastati. Lei è stato il giudice estensore del mandato di cattura nei confronti di Craxi. Ecco, la rimetterebbe quella firma? La rimetterei, però mi è dispiaciuto che nel corso dell'esecuzione non si è fatto nulla per venire incontro ai problemi di salute che dopo sono venuti a galla, e non si è concesso a Craxi la possibilità di tornare in Italia a difendersi da uomo sano prima ancora che da uomo libero. Senta, quanto ha inciso sulla professionalità di qualche suo collega l'essere stati trasformati in star dalla stampa? Beh, il protagonismo è l'esatto contrario dell'umiltà che Calamandrei considerava la dote principale. Quindi molto. Diventare uomini, tra virgolette, pubblici che cercano il consenso e la notorietà significa non essere più magistrati, quindi servitori dello Stato. Quindi è un danno grave alla giustizia che si è fatto? A mio parere sì, devo anche dire che le lusinghe dei mass media e dell'opinione pubblica, durante indagini che sono nell'occhio del ciclone, difficilmente sono contrastabili, perché l'uomo è debole, anche il magistrato. È una brutta notizia. Senta cosa dicono due grandi magistrati come la Boccassini e Pignatone, che sono nell'occhio del ciclone. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto. Una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata, perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro. È inutile negarlo. Questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. Una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Beh, dichiarazioni fortissime di tutti e due, mi pare, no? Beh, sono molto forti, ma l'amore per la magistratura significa autocritica, non difesa. Ma c'è questa oltranza. Autocritica? Credo che ci sia. Queste dichiarazioni sono sintomatiche di un fermento più ampio. Il giudice non deve avere scopi, cambiare la società, modificare le regole. Qualcuno lo ha anche teorizzato, certo. In passato. Senta Montanelli, ancora più duro nella valutazione del rapporto fra stampa e magistratura e giustizia. I giornalisti hanno la loro parte di colpa, perché senza dubbio tramutano tutto in spettacolo, tramutiamo, perché anch'io appartengo alla categoria. Noi facciamo sempre della dietrologia, noi facciamo sempre del sensazionalismo, noi abbiamo bisogno dello spettacolo, questi sono dei grossi vizi del giornalismo. Questo aver trasformato il giudice in una star è una richiesta della magistratura, dei giudici, oppure sono stati i giornalisti? È un incontro fra due disfunzioni e fra due colpe, quelle dei giornalisti e quelle della magistratura. Ma le colpe dei giornalisti sono meno gravi di quelle della magistratura. Dottor Caringelli, un giudizio veramente duro. Devo dire che i processi a mezzo stampa in cui si parla di fatti che dovrebbero essere riservati sono frutto di due colpe, evidentemente gli ambienti giudiziari. Sì, ma la società moderna è vittima poi di questa cosa qua. No, perché ci sono tante vite che restano poi. Chi viene tritato in mezzo? Sì, perché mentre prima si parlava dei processi, oggi si fanno i processi e nel fare i processi si raccontano fatti personali, umani, questioni del tutto estranee ai processi. E questo determina una condanna a mezzo stampa, ha detto qualcuno, un processo a mezzo stampa. È la cosa più grave che può capitare. Assolutamente sì. Per una società civile. Assolutamente sì. Ecco, lei a proposito di questo ha dichiarato che tra tutti i PM del pool di Milano, quello da cui non avrebbe voluto assolutamente essere inquisito era Di Pietro. Perché? Perché io ho letto i verbali con le sue indagini e i suoi interrogatori ed era lui così bravo come poliziotto, così incalzante e insistente da essere capace di far confessare, lo dico per paradosso, un innocente. Quindi è un mastino abile che per un imputato, anche innocente, non è l'interlocutore ideale. E quello da cui avrebbe scelto di essere inquisito? Tutti bravi, come ha detto Di Pietro. Colombo, perché era tra tutti il più disinteressato, il più estraneo, come deve essere un giudice alle vicende su cui interviene. Senta, durante i Mani Puliti ci sono stati anche drammatici suicidi. Uno in particolare è tornato di attualità proprio in questi giorni, dopo un articolo di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Parlo di Sergio Moroni e della lettera che lui scrisse all'allora presidente della Camera, Giorgio Napolitano. Sentiamola. Egregio signor presidente, un grande velo di ipocrisia, condivisa da tutti, ha coperto per lunghi anni i modi di vita dei partiti e i loro sistemi di finanziamento. C'è una cultura tutta italiana nel definire regole e leggi che si sa che non potranno essere rispettate. Mi rendo conto che spesso non è facile la distinzione tra quanti hanno accettato di adeguarsi a procedure legalmente scorrette in una logica di partito e quanti invece ne hanno fatto strumento di interessi personali. Rimane comunque la necessità di distinguere, ancora prima sul piano morale che su quello legale. Non credo che questo nostro paese costruirà il futuro che si merita coltivando un clima da pogrom nei confronti della classe politica. Ma quando la parola è flessibile, non resta che il gesto. E il gesto per Moroni è stato suicidio. Ecco, che impressione le fece allora queste parole? Un'impressione grande, oggi un'impressione ancora più grande, perché l'uso della carcerazione preventiva e i processi immediati ci hanno fatto sì che non ci fosse attenzione per gli uomini, per le vicende umane, con effetti purtroppo tragici. Senta, Mafia Capitale sembra solo l'ultima dimostrazione di una corruzione che sta dentro il paese, che ha cambiato anche la sua natura in qualche modo. C'è differenza tra la corruzione di oggi e quella di ieri? Sono due differenze. La prima differenza è il ruolo della politica. In passato la politica governava l'economia e la criminalità, oggi viene governata perché è più debole. La seconda differenza, prima era un patto bilaterale tra l'economia e la politica. Oggi è un patto trilaterale tra criminalità politica, criminalità economica e criminalità comune con alcuni faccendieri che tengono insieme il tutto. Senta, lei sostiene che la riforma del processo penale è fallita, perché? Perché il processo penale del 1989, quello all'americana per intenderci, sì, presupponeva pochi processi rapidi, perché tutto doveva definirsi in fase di patteggiamento o di giudizi alternativi. Oggi invece ci sono molti processi lenti e quindi è un processo che non funziona. Il processo lento per definizione non dispensa giustizia. Senta, ma se potesse cambiare una cosa, cosa sceglierebbe lei? Cambierei la prescrizione, perché io credo, caso Ethernet, che quando un processo inizia deve finire, perché tutti hanno diritto ad avere il responso del giudice. La prescrizione non può decorrere durante il processo, ma prima del processo. Ecco, cosa pensa lei della separazione delle carriere? Io non sono contrario, credo però che non sia il problema principale, perché il nostro problema relativo alla giustizia non è un problema di istituzione e magistratura, ma di funzionamento del processo. La separazione può essere una strada, ma non credo sia una soluzione. Non è il problema. Ecco, senta, dottor Caringella, ma quanta ideologia c'è ancora nella magistratura? Tanta? Ma posso dire una cosa? Io sarei favorevole a un CSM eletto per sorteggio, perché le elezioni dei componenti del CSM fanno sì che si creino correnti che inevitabilmente sono influenzate da ideologie e che in qualche modo mettono insieme politica e giustizia, fattori che vanno viceversa distinti. Senta, De Cataldo, caro figlio, Caringella appunto lei, tutti e tre pugliesi, magistrati, esuberanti, un destino praticamente segnato. Ha già in mente il prossimo romanzo? Ho in mente un terzo romanzo che sarà il racconto di un processo dal punto di vista della parte più debole, che non parla mai, e cioè la vittima, mentre i primi due erano dal punto di vista del giudice e dell'imputato, quindi un'altra angolazione per la verità. Quindi ha bisogno di scaricare questo peso, ma sì, ma perché poi il giudice penale è uno scrittore, perché scrive sentenze, conosce vicende umane interessanti che sono nascoste dietro i delitti. In più sono pugliesi, quindi c'è l'amore per l'avventura, per l'azzardo, quindi per il viaggio. Tutte queste cose fanno sì che ci sia questa seduzione. E questa passione le fa fare meglio il giudice, carico? Molto meglio, sia perché sono più felice, e gli uomini felici lavorano meglio, sia perché ho imparato a scrivere meglio, a scrivere in modo più semplice e più facile. Mix 24. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo una parola. Non c'è più che posso. E oggi Pietrangelo di nuovo con noi, per fortuna. Oggi in metropolitana ho visto che c'era un tipo anche elegante che teneva sul petto un cartello con una scritta: dove sei? E anche due bambini seduti sui sedili, uno da un lato e l'altro al posto, con un cartello e la stessa scritta: dove sei? Ed era come un'atmosfera strana, dove tutti volevano scrivere una canzone, e lo spiegava uno che era seduto sul vagone centrale della metropolitana e voleva scrivere una canzone dal titolo "Dove sei?". E anche i ragazzi in servizio di vigilanza, che erano schierati nei corridoi, quelli di passaggio, sorvolavano sui controlli e srotolavano uno striscione dove c'era scritto "Dove sei?". E i musicisti, quelli che stazionano sempre un po' dappertutto, portavano dei punti interrogativi grandi e i giocolieri glieli trasformavano in chiavi di violino e ne facevano musica. E così tutti i pendolari acchiappavano perfino i punti esclamativi e ne facevano delle viole d'amore, dei contrabbassi, insomma. Il treno si ferma, si aprono le porte, entra una donna bella, elegante, e si guarda intorno e dice, lo dice a tutti, e gli altoparlanti catturano la sua voce, dice: oggi sono io. Prima delle tue bolle voglio leggere un ascoltatore dubbioso che ci scrive: forse guadagnate qualcosa dagli sms ricevuti, volevo rassicurarlo, altrimenti non si capisce perché ne leggete pochi. Non guadagniamo niente. Ne leggo subito un altro di Antonio, perché così anticipo Pietrangelo. Dice: ieri Benigni mi ha fatto ritornare il desiderio di credere in Dio. Roberto for President. Antonio, bene, poi dopo tanto sentiremo Pietrangelo su Benigni. Andiamo con le bolle. Dai, vai. Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. Allora, questo era un dialogo di Una poltrona per due, bellissimo film. Perché? Perché ci sono un po' di numeri che bollono, diciamo, stanno bollendo nell'economia. Intanto oggi escono i dati dell'inflazione dell'eurozona, sono molto importanti perché vediamo se cominciano a registrare anche il crollo del prezzo del petrolio. Sono i dati di novembre, dovrebbero dare più deflazione, ma sai, non è detto, perché alla fine l'economia è abbastanza imprevedibile. E, però è un dato importante per le prossime mosse della BCE, mosse di Mario Draghi. Sempre oggi, a proposito di banche centrali, si riunisce la Federal Reserve, anche questa è una riunione importante. È in ballo la decisione di alzare i tassi, però anche qua c'è lo scenario, diciamo, della crisi petrolifera al ribasso, che ha innescato tutta una serie di incognite sull'economia. Sai a quanto ammontano gli investimenti mancati delle compagnie petrolifere? Trilione di dollari. Sono numeri che uno non può immaginare. Esatto, sono numeri che impattano notevolmente sull'economia, in realtà. Tutti pensano che il crollo del prezzo del petrolio sia una manna. Vedrete. Vedremo. Vedremo. Vai, vi faccio un po' allegri, dai. Basta. Dai. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Questa è la Russia. Bocelli. Ecco, appunto. Dalla bellezza del Natale di nuovo alla realtà della Russia. Sì. Allora, siamo sicuri veramente di voler dire sì alla nuova vasta ondata di sanzioni che Obama sta preparando contro Mosca? Io non sarei tanto convinto. Beh, è crollato il rublo, meno 53% sul dollaro nel 2014. Il prezzo del petrolio, abbiamo detto, sta sotto i 60 il Brent e anche il 50. Per Mosca ovviamente si tratta di un'emergenza economica e potrebbe anche diventare un dramma, anche se hanno fortissime riserve estere, però comunque sempre una cosa seria è. Io penso che la stabilità in Europa sarà minata da tutta questa roba, e gli Stati Uniti, che sono i registi di questa operazione, in realtà sottovalutano una cosa. Dipende qual è l'obiettivo. Guarda, li conosco abbastanza. Loro non immaginano neppure che cosa sia la storia, non dico della Russia, ma dell'Europa. Dovrebbero ricordarsi solo la figura di Gorbaciov, perché questo signore, che era il principe della diplomazia russa, trattò la vendita dell'Alaska e per conto dello zar agli Stati Uniti, e trattò per 10 lunghi anni. E solo quando il prezzo fu considerato da lui giusto si giunse alla transazione finale. Fu sempre Gorbaciov che si riprese la Crimea senza sparare un colpo, e guarda caso il principe della diplomazia russa è anche l'idolo di Primakov ed è l'idolo di Lavrov. E quindi vedremo se l'obiettivo L'inverno russo è molto lungo. Far cadere Putin non sarà facile. Non credo, vedrete, che sia possibile. Salamino. Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta banda a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere. Figurati che faccio il corazziere, dicono che di crescere. Auguri ai corazzieri, auguri dai corazzieri, corazzieri fondamentali in questa cerimonia del prenatalizia, quando ieri nel salone appunto dei corazzieri c'erano già tutti i personaggi del Toto Quirinale che stavano ad ascoltare l'ultimo messaggio di Giorgio Napolitano. Allora, è tutta una questione di tombolata. I meglio classificati di questa tombolata prenatalizia. Poi fagioli. Allora, vediamo. Per esempio, ascoltiamo una carica. La riconoscete? È la seconda carica dello Stato, Pietro Grasso. Allora, secondo te, Mario, fa ambo, terna o quaterna, Pietro Grasso? Nessun estratto su quella ruota. Allora, seconda carica. Mario, ambina, ternina o quaternina per Laura Boldrini, che oltretutto, terza carica dello Stato, quale c'ha anche il vantaggio di essere una madamina. Sinistrina, niente. La tombola, dunque, è una giostra. Allora, c'è Piercarlo Padoan, o Padoan che dir si voglia, che è momentaneamente ministro dell'economia. Ambo, terna o quaterna? Grigetto, niente. Fuori dalla riffa è Romano Prodi, non c'era lì, ma dentro ed è partecipe, avendo un bel 23. Di nuovo vediamo questa ruota come gira. Ah, ecco, c'è Walter Veltroni. Che dici, ambo terna o quaderna? Essendo tutto adesso inutile, ambo, perché termo, non quaterna. C'è... Veloce. Ambo. Oh, armato di ceci, anche perché lui è armato di ceci, che li sta posizionando. Poi c'è Giuliano Amato. C'ha un cornicello di corallo ben nascosto. Che dici? No, vedi alla voce conto corrente. Conto corrente. Pier Ferdinando Casini. Allora, ambo terno quaterna. Vedi sempre la voce conto corrente. Ah, va bene. Allora, infine, tomo, cacchio. Chi c'è? C'è anche Paolo Gentiloni, ministro degli esteri. Beh, mi sembra questa vicenda del Maroni. Io so che non sarà Renato Raschel, ma dove andrà a finire lui a fare quello? Il corazziere. Si va a fare il Natale in India! Oh, non ne abbiamo salvato uno, Sarà dura vedere un presidente della Repubblica. Sara, vai anche tu in India a fare Natale? Victoria Modesta, una cantante pop inglese che non ha una gamba ed è il personaggio del momento. Victoria sta alle dive esasperate, barocche del pop, secondo me, come Fontana con i suoi tagli sulla tela è stato per l'arte moderna. Cioè, con l'ascesa di Victoria, che mostra una splendida gamba a metà, Lady Gaga e le altre sono artisticamente morte. Ah, Victoria, infatti, va oltre la capacità di trasformarsi con i costumi, perché lei usa il suo corpo e la sua protesi è un elemento in più nella rappresentazione artistica. Infatti si illumina, diventa un ago, è un elemento fondamentale del racconto. Insomma, è riuscita, io veramente non so come, a trasformare un handicap in un valore aggiunto. Chapeau. Mix 24. Il canzoniere. Io sono come quella foglia, guarda, su quel nudo ramo che un prodigio ancora tiene attaccata. Negami dunque, non ne sia rattristata la bella età che ad un'ansia ti colore per me a slanci infantili s'attarda. Dimmi tu addio, se a me dirlo non riesce. Morire è nulla, perderti è difficile. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, c'è ancora una cosa brevissima per la tarda. Ok, questi sono gli Hot Chocolate, un sexy thing. Lo dedichiamo alla Tardelli, non però per Sexy Thing, ma perché che freddo fa. Il 2014 è stato l'anno più caldo dal 1500 ad oggi. Vuoi dicono... parlare del climate change? No, è solo una statistica che insomma lascia il tempo che trova. Che siccome bello, sono com'è divertenti... che hai detto la parola statistica? Statistica. Che bello. Statistica. Sai che adesso come la chiamano i piritolli? Come? Big data. Big data. La chiamano così perché tu, Sara, pensi, non so, non sono negazionista. Non sei negazionista? No, ma neanche io. Voi sapete il mio esordio la mattina quando arrivo, com'è, Giovanni? Com'è? Bene, Tardelli, di quale minoranza, popolazione della terra, sfortunato ti devi occupare stamattina? Vabbè, però posso dire, Sara Tardelli non è però una buonista piritolla, dai. Mamma mia, è buonista però. No, lei è buona, non è buonista, è diverso. Guarda, schiere di fan che mi fermano, mi dicono, come la Tardelli. ascoltatori che ci chiedono notizie, abbiamo tanti ascoltatori che ci scrivono perché non leggiamo gli sms, perché ci guadagniamo sopra, leggiamo, no? Tantissimi e però non sempre sono pertinenti con l'argomento, delle volte arrivano in ritardo, chiedo scusa naturalmente, però insomma siamo molto attenti a quello che ci scrivete. Cordiali saluti a Bruno D'Alonso da Bergamo. Posso dire una cosa che non abbiamo mai detto, ma lo vogliamo dire e ce lo vogliamo dire e lo facciamo sapere, che abbiamo non solo raddoppiato gli ascolti dell'anno precedente, ma di quelli nuovi, che sono sempre di più, ma lo vogliamo dire. Grazie a tutti questi ascoltatori. Anche a quelli che ci scrivono gli sms, Liban, che hanno la pazienza di sopportare il fatto che non rispondiamo. Salamino. Torna Balzac con lo pseudonimo di Carmelo Lo Papa su Repubblica di oggi e ci racconta un fatto, e cioè che il cerchio diventa quadrato e che la magia smotta nella dura realtà. Allora, forza Italia, che succede? I sondaggi al palo, 4 milioni di deficit, 55 dipendenti licenziati, caro Mario. Poi c'è Fitto che fugge da Foggia. Fitto. E poi che cosa succede nel cerchio magico? Adesso pronunciate la formula del cerchio magico. Da oggi parteciperà anche Lullaby. Subito! Allora, sto benedetto cerchio magico, ve lo ricordate, no? C'è Dudù, c'è la signora Pascale, nonché fidanzata del cavaliere, poi, insomma, c'erano tanti stretti intorno al cerchio magico, ma la novità qual è? Che perde il pezzo più sostanzioso. Denis Verdini se ne va. No. Si dimette, le dimissioni verranno accettate e resta in vita Maria Rosaria Rossi. Cerchiata! Adesso pronunciate la formula del cerchio magico. Da oggi parteciperà anche Lullaby. Subito! Intanto abbiamo Donato da Pescara. Vediamo se vince. Buongiorno. Allora? Buongiorno. Umberto Sabba, La Foglia. Giusto! Bravissimo! Devo dire che anche Gianluigi ce l'ha scritto, sono in tanti. Però noi preferiamo dare voce agli ascoltatori in questo caso. E Donato, a Pescara che fai? Io sono un chirurgo in pensione. Ah! Quindi non opera più. Vi seguo tutte le mattine, quindi grazie. Prego. Che chirurgo generale. Plastico generale. Chirurgo generale. Leggo molti libri ho letto tutti i libri di Buttafuoco. Ah, grazie. Il dolore pazzo dell'amore. Grazie, che meraviglia. Complimenti. Un altro Feltrinelli. Ce n'è ancora uno nuovo, no? Qual è l'ultimissimo? L'ultimissimo è stato presentato. Sì, mi manca. Funerali della signora Ghieri. Lo leggerò. Grazie mille. Buon ascolto. Grazie. Oggi noi raccontiamo la storia, dopo il giornale radio, la storia di un uomo che è il simbolo della lotta pacifica contro ogni tipo di violenza e di sopraffazione, che in questo momento naturalmente è importante ricordare per quello che sta capitando negli Stati Uniti. È la storia di Martin Luther King. Attraverso la non violenza noi vogliamo aprire il dialogo, mettere in crisi le certezze di quell'America che da sempre rifiuta ogni negoziato. Con la non violenza noi chiediamo il confronto, chiediamo di poter discutere. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, c'è una notizia, la Pinotti sta parlando, ha parlato anche Gentiloni. Gentiloni ha detto che la posizione del governo sui Marò era quella da tenere e che sarà unitaria e così via. La Pinotti invece ha dato un annuncio importante, si sapeva, ma è bene ribadirlo: noi resteremo in Afghanistan anche l'anno prossimo, nel 2015, e ci sarà un contingente di 750 unità militari. E quindi questo italiane. Discorso di che cosa facciamo dal punto di vista complessivo sul piano, diciamo, di politica generale internazionale, restiamo dove siamo, non importa, facciano come vogliono. Ho fatto numerosi convegni sul libro bianco della difesa negli ultimi mesi, e secondo me la politica estera cambierà molto probabilmente. Cioè, perché cambierà, che vuol dire? Perché gli impegni italiani all'estero sono enormi, siamo tra i maggiori contributori dell'ONU e non abbiamo in cambio niente. Non riusciamo neanche a portare a casa due marò. Vorrei però dire che la politica estera d'Italia ha difficoltà a cambiare per un fatto preciso: che l'Italia non ha sovranità. Ma secondo me noi dobbiamo diminuire il nostro contributo alle missioni di pace, perché sono sproporzionate rispetto al nostro peso. Non esiste. Va bene, e intanto per chiudere Ornella Vanoni. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.